Ci saranno meno agenti per strada, meno commissariati e meno volanti, oltre ad esserci un fortissimo intervento che pesa sulle forze armate, e questo nel momento in cui anche qui in campagna elettorale si è detto che la sicurezza era il centro di tutti i problemi e si è qui a votare un decreto sulla sicurezza. È una contraddizione evidente e noi faremo tutto quello che potremo fare con tutti gli strumenti parlamentari a disposizione per far sì che vengano ripristinati i fondi per la sicurezza.